Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Oh Milan, buongiorno. Noi ci abbiamo gli scarpai, ma a te ti sei dato una bella risolata a Montella, Caro Milan, non vedo l'ora che viene il giorno 21 novembre, lunedì. Sai perché? Che il sabato c'è Napoli-Milan. Ti ho visto, Veronica, su Google, sei bellissima, mamma mia, tutta da mangiare, pane e olio. Io invece penso che potevamo star tanto bene solo con Milan e con Manera, molto bene. Leonardo, pane, olio e fluor. Eccoli qua, anche loro sono funamboli come noi, Veronica mia. La signora vuole venire qui al posto mio? No, non lo so. Me non lo dica, credo. Se vuole venire qui al posto mio, possiamo farla stare qui al posto mio con te in Manera. Poi voglio vedere come vi gestisce. Gli studi di Roma sono aperti. 800 24 0024. Noi siamo i funamboli. Come si fa a mandare questi begli audio, cara Veronica? Lo sai? Non lo so, si può mandare un corvo, un piccione? Oppure un sms o un whatsapp al 349-238-6666. No, ma adesso ti devo spiegare che l'audio si manda solo su whatsapp, adesso non vorrei... Davvero? Cioè, io no, sull'sms, quello non posso dire pronto Alessandro, ciao, come va? Come dei dubbi, Tu sai che io sono una grande fan delle note vocali. Tu ami moltissimo le mie note vocali di 5 minuti e 44. Quando ecco, vedi nota... Ecco, devo dire, potremmo istituire una sorta di tortura per tutti coloro che vogliono essere torturati. Una nota vocale di 5 minuti e 20 di Veronica Gentili. Tu la vedi e dici no! È la fine, perché poi sei anche costretto a sentirla. Perché metti che in quei 5 minuti e 45 ci fosse una sola informazione utile di lavoro, certo. Sei costretto. Tutto poi il ci resto... sono le interrogazioni. Allora hai sentito al minuto 2:20 che cosa ti ho detto, cosa ti proponevo? No, non ho sentito, vado avanti veloce. C'è un'unica notizia che devi scovare in 5 minuti e mezzo di digressioni, certo, e tu la metti in mezzo al minuto 3 per vedere se uno è attento. Ma è stato attento. Ah, ma quindi Ale non hai sentito quando ti ho detto che domani alle 9:05 dobbiamo, certo. Va bene, facciamo così, facciamoci del male. Allora, siamo qui, i funamboli, con tante notizie. Veronica, hai sentito, tra l'altro, poco fa c'era anche Daniele Piervincenzi, sì. Il cronista di Nemo, che è diventato il cronista più famoso, a suo malgrado, visto per la capocciata di Spada, che è stato arrestato. Sì, alla fine hai visto. Ha colpito molto. Ieri sono andati ovviamente a sentire un po' di Vox Populi, come si suol dire, in uno dei bar più frequentati di Ostia dagli Spada. Senti un po', senti. Da quando ci stanno ste elezioni, a Roberto l'hanno massacrato. Se c'ero io le faccio un bucio da culo così proprio. È tranquillo come ragazzo. Sì, ho cresciuta con lui, è una bravissima persona, è un angelo, vanno a buttarci solo fango. No, dai, dobbiamo rotte il cazzo, state tutto il giorno qua, ma che cazzo vuoi? Ragazzi, il contesto è questo qui, a parte che è l'unico massacrato della vicenda. È il cronista della Rai, Sì, ma poi l'altra cosa che inizio a trovare insopportabile è che davanti ad ogni comportamento che non ha nessun senso violento si debba sempre trovare una giustificazione, un'apologia, che ormai diventa una specie di sport, perché è stato provocato, perché è stato indotto. Quindi tutte queste cose, tipo spaccare il naso ad uno con una capocciata, dargli una craniata in faccia, è una reazione, sì. Perché l'azione è stata quella di andare lì a provocare con le domande. Comunque, guarda, a proposito di reazioni, poi ne parleremo di un'altra reazione di un prete di Bologna, ma mi portavo già avanti su quello avanti. Che secondo me sarà un po' il basso continuo della puntata. Non farlo, perché tra poco invece abbiamo un sindaco, anzi è già in linea con noi un sindaco da cui vogliamo partire per raccontare la prima vicenda funambolica. Ovviamente chiamateci se volete anche sulla vicenda con la spada ossea all'800 24 0024. Ma qui, Veronica, abbiamo il sindaco di Affile. Siamo in provincia di Roma sempre, Ercole Viri. Buongiorno sindaco e grazie di essere buongiorno qui. Buongiorno ai radiospettatori, ascoltatori anche. Allora, lei di essere tanti. Certo, noi siamo sempre, sempre tantissimi. Quanti, di che partito è lei sindaco? Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, condannato in primo grado, sì, a... Beh, non lo dica, non dica questo sì con un orgoglio. Questo sì entusiasta. Con un orgoglio. È troppo. Per un onore. No, adesso spieghiamo tutto. Per apologia di fascismo, per avere eretto un monumento, un sacrario, in onore. Un museo. In onore del generale, sì, Rodolfo Graziani, per, sì, chi non lo, sì, sapesse, sì, generale fascista. Affilano, un nostro concittadino. Affilano, certo, quindi generale però del fascismo, poi. Gerarca fascista. Condannato dalla storia per. Governatore della Cirenaica, viceré, sì, dell'Etiopia, sì. No, ora facciamo parlare anche lei. Spieghiamo solo qual, grazie, è il caso, grazie. Perché se, tanto così, per dare un inquadrarlo ai nostri ascoltatori. Poi lei ci dica, bene. Intanto dica, orgoglioso di questa condanna. Insomma, perché? Come? Orgoglioso, dice, di questa condanna. No, io dico l'apologia del fascismo a 70 anni dalla morte del fascismo. Perché il fascismo è morto e non ci sarà nessuna possibilità che possa risorgere. Grazie a Dio. Quindi, come? Grazie a Dio, dico. Sì, meno, sì, sì, grazie, male, a Dio. No? Ognuno fa le sue considerazioni. Quindi 70 anni. Accusato un sindaco e due assessori di apologia del fascismo per aver intitolato un museo ad un proprio concittadino che nel 1918, all'età di 36 anni, già era colonnello dell'esercito italiano. Il più giovane colonnello dell'esercito italiano mai esistito. O immaginate un paesino, sì, di 1500 anime che può vantare questo record di eroicità di un proprio concittadino, intitolargli un museo di 36 metri quadrati all'interno di un parco pubblico di un ettaro e mezzo è una cosa scandalosa. Soltanto sindaco, piano però una cosa, non studio è... potete dire che abbiamo commesso apologia del fascismo. No, questo lo dice la condanna, non lo diciamo noi. Ma noi, la io condanna volevo... in primo grado. Sì, la sì, in primo, certo, grado. In primo grado. Poi mi richiamerete in appello o in Cassazione. Mettetevi l'appunto. Va bene, va bene. Quando lei dice verrà assolto. Quando poi sarà assolto. Sicuramente, certo. Certo che sarò assolto. Lei dice, sì, no, la storia, sì, non va condannata, va rivisitata. Bravissima. Sì. Ecco, che cosa vuol dire che la storia va rivisitata? Cioè, secondo lei il fascismo, allora, per esempio, andrebbe rivisitato come? Il fascismo come? È un arco di temporale di 20, sì, anni che dal 22 fino al 1945 ha governato l'Italia. Bene o male, questo giudicate voi, io non lo so. Non possiamo cancellarlo. Perché se no dovremmo cancellare la storia dei comunisti, di Stalin, dovremmo cancellare tutti i morti che l'apologia del comunismo, è questo che si dovrebbe andare a condannare, i morti fatti dal comunismo sono milioni rispetto ai pochi fatti in quell'epoca, che va condannata, vabbè, ripeto io. Ma noi non possiamo condannare tutti coloro che c'entrano in questo. Sindaco, non facciamo la classifica di quanti morti ha fatto uno e quanti morti ha fatto l'altro. No, degli altri vengono osannati. Osannati non vengono osannati. Ma come no? Io leggo quando vado a Roma Viale Palmiro Togliatti, nessuno dice niente. Lì c'è qualcuno che dice cancelliamo via Palmiro Togliatti a Roma. Sì, vabbè, io non ho mai sentito nessuno. Non è via Stalin, invece, è via Palmiro Togliatti, però, che sono due cose diverse. Io quello che le voglio chiedere. Non è che c'è via Stalin, c'è via Palmiro Togliatti, che sono due cose diverse. Però sono simili. Però sindaco, veniamo, scusi, c'è un punto. Veniamo al però andiamo sindaco, alla aspetti, storia, ci fa, la storia. Ci, allora facciamo come la, dice Croce, la sindaco, storia non va cancellata. Si fermi. Allora, funziona così in radio. Ci faccia fare la domanda di 7 secondi, sì, e poi lei risponde. Allora, la domanda è questa: Graziani, che è stato nel 1918 già colonnello, poi lei lo sa, c'è stata la condanna dell'ONU per le repressioni in Etiopia, in Abissinia, i gas, cioè è stato considerato anche un brutale e feroce assassino nel momento in cui abbiamo conquistato, no, l'Etiopia, poi la Somalia prima. A questo lei, è per questo che è arrivata la condanna, immagino. Lei a questo allora, che risponde? No, allora, la storia la scrivono i vincitori. lei dice che Graziani, ma noi non puntiamo sul Graziani fascista, noi puntiamo sul Graziani concittadino di Lo so, ma è difficile fare una distinzione tra le due cose. 7 secondi avrebbe fatto la domanda e io avrei risposto, quindi vada. Sia coerente con quello che ha detto. L'ha detto allora, lui, infatti, io no. Chi l'ha detto? L'ha detto, qualcuno l'ha detto. Mi faccia rispondere a me, sia così gentile. Allora, la storia la scrivono i vincitori e hanno scritto quella storia. Io sto alla storia scritta dai vincitori. Però voi dovete considerare che noi abbiamo intitolato a Graziani a Filano il museo al soldato in un parco di 1,5 ettari di terreno. A noi non interessa, perché se noi avessimo intitolato a Badoglio, a Mussolini, a qualche altro gerarca fascista, allora c'era l'apologia del fascismo, come vi è venuto in mente? Io faccio lo stesso ragionamento che fa Frassinetti a Pretappio e lo stesso ragionamento che fa De Meis a Filettino. Voi Frazzinetti lo conoscete. Vabbè, ma non è un gerarca, ma era il generale del fascismo. Non ho ancora terminato. Un secondo, poi però 7 secondi noi, non 70 lei. A Filettino c'è il parco dedicato a Rodolfo Graziani. È un paese che sta a 35 km perché da è nativo di lì. Sì, era nativo. È lo stesso Rodolfo Graziani, è sempre il gerarca fascista. Certo. Però io le volevo fare un'obiezione. Esistono dei monumenti. Aspetti un attimo, glielo dico anch'io. Però esistono dei monumenti che sono già che stanno lì, alcuni monumenti fascisti, se ne è discusso, che stanno già lì e la polemica diventa se buttarli giù. E se ne discute, se ne è discusso molto. Qualcuno dice un'idiozia, perché la storia c'è stata e va ricordata. Altra cosa è d'amblè invece, dal nulla, decidere oggi di fare un monumento e intitolarlo a una persona che è stato innanzitutto è noto alle cronache come gerarca fascista. Sono due cose diverse, ne conviene. È noto come il più grande cittadino mai nato da file, lascia perdere il fascismo, noi lo consideriamo un nostro concittadino e gli affilani faranno sempre così. Non è che noi arriva cioè un museo, un soldato in un paesino di 1500 anime, a chi lo dovevamo intitolare? A mio nonno, che ha fatto la guerra lo stesso, è sempre un soldato. Sì. Viene intitolato al più alto in grado. E invece mi sembra ci vada solo, non è che. Ma come cittadino, dai, come affilano, lei dice l'abbiamo, è il nostro più grande concittadino. Certo, anche lei avrebbe fatto la stessa cosa. Però i giudici, anche sindaco, tu avresti fatto la stessa cosa. Sì, sicuramente, però cucinato da file, certo. Sindaco, uno vive nel mito di un eroe a Filano e quindi va di conseguenza. Vabbè, sindaco, perché i giudici l'hanno condannata? Mi dica, i giudici a Tivoli, perché hanno condannato a lei i due assessori allora? Allora, vi spiego l'antefatto. Ci spieghi. E noi siamo stati condannati perché era tutto già organizzato, voi immaginate? Da chi? Da qualcuno, adesso le spiego l'antefatto. Ma lei dice che è una sentenza politica perché ce l'hanno con lei, secondo lei? Sì. Non ce l'hanno con... Sì, certo che ce l'hanno con me. Ma io le faccio... Aspetta, vi faccio finire però. Sì. Se noi intitoliamo al museo, al Graziani Rodolfo, che è lo stesso di Filettino, dove all'ingresso del parco c'è scritto Parco Rodolfo Graziani, è lo stesso Parco Rodolfo Graziani, è lo stesso Rodolfo Graziani che abbiamo noi in un museo, e da noi non c'è neanche la scritta, non c'è niente, c'è questo museo dedicato, all'interno ci sono delle foto, c'è il maresciallo con i propri concittadini, ci stanno i reperti storici, le medaglie di tutti gli affilani, di mio nonno, di tutti i nonni di affile che hanno consegnato la loro medaglia, la loro baionetta, il loro civello, e sta lì. E non c'è nessun riferimento al Graziani che sia fascista. C'è il Rodolfo Graziani con tutti affilano. I suoi concittadini. Mi faccia parlare. Ho allora, capito, allora, la sintesi in radio, le ho chiesto perché è stato condannato, mi sta facendo la storia di Graziani. Ma non la stiamo facendo parlare, allora, sennò dobbiamo fare uno speciale di 3 ore su affile. Ecco il collegamento, ma guarda, mi avete chiamato voi, mica ho chiamato io. No, sì. C'ha ragione, ma purtroppo abbiamo dei tempi radiofonici. Dovevamo già chiudere 2 minuti fa, dovevamo già chiudere. Sola, signora, no, ma non l'ho capito. Sindaco, è una questione, sindaco, è una questione di sintesi, dovevamo chiudere da 2 minuti. Che il Graziani di affile non è lo stesso Graziani di Filettino, sapete perché? Perché io non sono del PD. Mentre il sindaco di Filippina del PD e quindi Lo dica così è così chiaro, abbiamo capito, così quindi è uno scontro tra partiti. È stato condannato lei perché allora, lei non è del PD, è il sindaco di Filippina del PD. Che è un grande sindaco a Filippino, ha detto che lui sta facendo i lavori, sta ultimando il parco perché il presidente Zingaretti gli ha dato un ulteriore contributo. Lo sta facendo adesso. Ok, va bene. Sindaco, si fermi lì. È stato chiaro. Se lo diceva con questa chiarezza, sa perché sono stato condannato? Perché il sindaco di Filettino è del PD e lì c'è il parco a Graziani. Io sono di Fratelli d'Italia e ho fatto il monumento a Graziani e quindi è una sentenza politica. Comportati diversamente. Comunque la chiameremo, promesso, appello e Cassazione. Quando ci sarà il terzo grado di giudizio, noi facciamo uno speciale di 2 ore, una puntata con il sindaco di Affile, va bene? No. Però, Veronica, allora, ieri c'è stato un prete che ti ha fatto molto arrabbiare, ha fatto arrabbiare un po' tutti. Per la verità questo prete di Bologna ha chiesto scusa poi in mille modi, ha detto ho perso anch'io la lucidità. Perché è anche Facebook questa cosa, no? Anche ho capito, però allora uno si lega le manine, le tiene legate fino a quando il cervello si è connesso. Allora. Perché purtroppo non è l'unico, di casi ce ne sono stati in questo periodo a non finire. Allora, diciamo, una ragazza è stata purtroppo violentata a Bologna e questo prete, che si chiama Don Lorenzo Guidotti, si è messo lì su Facebook e ha detto, ma insomma, frequenti quella piazza, ti ubriachi da fa schifo, vai con un magrebino, noti gentleman, soprattutto quelli di Piazza Verdi, il minimo che possa accaderti se ti butti in una vasca di piragna e che ti mangino una mano, insomma, il minimo che possa accaderti è che ti sei stata violentata. Tutto questo detto da un prete, da un parroco, ribadiamo, capito? E dovrei provare pietà per te? No, chi sceglie la cultura dello sballo lasci che si divertano anche gli altri. Che dobbiamo commentare? Non c'è, ieri la Zanzara ha chiesto scusa, una cretinata abissale. Dopo un po' uno si stanca, perché tante cose, tante idiozie vengono scritte, mi torna in mente, apparentemente non c'entra, ma le cose sono tutte le stesse. L'assessore mancato alla giunta regionale di Cancelleri in Sicilia, che ha scritto che bisognava dare fuoco a Ettore Rosato e bruciarlo vivo in piazza. Poi uno si scusa e dice mi sono fatto prendere la mano. Ma è sempre così. Ora, lungi funziona da noi così, avere... funziona dare... così. Perdi la brocca, ti beccano, chiedi scusa. E poi fai la rettifica. No, non volevo dire questo. Purtroppo, però, poi io credo che tra la testata che viene data, poi per carità, lì c'è un retroterra di altro tipo, c'è la Ostia, la situazione che conosciamo. Ma tra la testata che viene data e le parole che si usano a casaccio, utilizzando una violenza verbale, c'è in un enorme. Guarda qui i messaggi. La prima versione del prete è ottima, il prete ha ragione. No, perché poi gli ascoltatori va bene, il prete ha ragione. Ma quindi il prete ha ragione, bisognerebbe chiedere a tutti questi ascoltatori che poi te lo fanno a te e ti chiedono allora se ti succede a te, uno dice ma invece se sua figlia va e esce con degli amici, beve, si ubriaca, va bene che succeda questo, che le accada questo. Però sul tema migranti noi invece abbiamo chiamato un sindaco che ci deve raccontare una cosa particolare, Però chiamateci sul sindaco di Affile, sulla vicenda del prete, su Ostia, 800 24 00 24. Noi però abbiamo chiamato un sindaco, siamo a Erbezzo in provincia di Verona, che quanti abitanti fa? Lo chiediamo a Lucio Campedelli. Sindaco, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Quanti abitanti siete? A Erbezzo siamo circa 750 abitanti, più o meno che più in questo momento. Vabbè, però c'è una frazione dove gli abitanti invece sono? Sono una decina. Una decina. Una decina di abitanti, sì. 10 abitanti, che però si sono rimpolpati ultimamente. Perché sono arrivati 20 migranti, credo. Allora, sono arrivati 26. Al momento 26 migranti, 26. Siamo in attesa di altri 5, però la cosa che ci preoccupa molto è che questa struttura, che è un'ex caserma, è stata adibita a questo scopo e la prefettura ha pubblicato un bando per 80 posti, quindi chi se li ha aggiudicato si spera, voglio dire, per cui certo. noi no chiaramente, ma il pericolo che arrivino ad 80 è concreto. Cioè 10 abitanti, di cui 2 novantenni. Vuol dire 1000%, 1000%, avete capito bene. Sì, e 80 possibili migranti, 10 abitanti e 80 migranti, ecco. Ma lei, sindaco, che ne pensa? Nel senso, lei è molto preoccupato? Pensa che invece possa avere... Cioè, era preoccupato anche del fatto che foste così pochi e, insomma, non rimanessero persone di Erbezzo? Guardi, noi siamo una realtà montana, per cui, come tanti comuni montani, abbiamo questo problema di pochi abitanti su un territorio ampio, dispersi in piccole borgate che noi chiamiamo contrade. Ecco, sono tutte più o meno di queste dimensioni le nostre contrade, quindi non è un caso isolato. Il fatto estremamente particolare è che ci sia a 50 metri da questa contrada l'insediamento di un numero così esorbitante di migranti. Ecco, questo stravolge la vita delle persone e io posso capire e condividere la preoccupazione che hanno questi pochi residenti che si vedono un po' anche violata la loro privacy, se vogliamo, comunque occupati dei loro spazi di vita quotidiana. Beh, certo, c'è da dire che effettivamente il problema della gestione dei migranti da anni, non adesso, da anni, è quello di uno Stato che non riesce a gestirli in una maniera giusta, in una maniera serena, in una maniera anche ragionata, perché mettere 80 migranti in una frazione dove ci sono 10 italiani, di cui sono due novantenni, perché lì c'è una caserma, dal punto di vista della logica proprio, ma che senso appunto, non ha nessun senso. Di mettere 80 senso... persone che vengono, che ne so, dal Ghana, buttate in un luogo sperduto, mi perdoni sindaco, sperduto, nel senso che saranno lì in montagna, in mezzo a 10 abitanti, a due case. Ma voglio dire... Più che altro c'è un piano di integrazione? Cioè lei allora, ha qualche... io contesto un po' questo. Cioè, se l'obiettivo è quello dell'integrazione, credo che siamo sulla strada sbagliata, perché come si possono integrare decine e decine di persone in una popolazione di pochi abitanti? Non c'è la possibilità nemmeno di inserimenti lavorativi concreti, abbiamo una struttura socio-economica molto fragile, già i nostri giovani se ne vanno, la montagna è popolata molto da anziani più che da giovani. Se l'obiettivo non è quello, cos'è? Un parcheggio dove andiamo a mettere là nel nulla questi poveri ragazzi con i quali noi non abbiamo nulla contro, che non hanno la possibilità nemmeno di socializzare con nessuno, sono lontano dai servizi, da tutto, sembra una stazione punitiva, voglio dire. Sì, una specie di ghetto in cui Esattamente, quindi non si capisce esattamente qual è la finalità vera. Il problema è, l'avete evidenziato, che lo Stato non è in grado di gestire razionalmente questo fenomeno e lo scarica sul territorio, per cui chi è poco fortunato come Arvedo in questo caso si trova a dover subire una presenza così esorbitante di migranti in cerca di una vita migliore, però con tutte le complicazioni che comportano su un territorio che è privo anche tra l'altro mi sembra, sindaco, lei sta ponendo delle problematiche in maniera molto ragionevole, in maniera molto non polemica, contrasto, ma a dire, ragazzi, ma che si fa? Cioè, voglio dire, io lì ci sono 10 abitanti, due novantenni, una badante, cioè Stato, ti rendi conto di che cosa stai facendo? Allora, sembra che... ma la gestione è quella, li mettono dove riescono, dove possono, dove ci sono spazi, dove c'è? Sono spazi vuoti da occupare. Che non hanno migranti, ci sono comuni che sono pieni di migranti, cioè non c'è un piano vero e proprio, non c'è equità nella distribuzione, per cui succedono questi episodi. Adesso sta a noi essere più bravi dello Stato, cercare di fare in modo che questa situazione non penalizzi troppo la nostra gente, perché chiaramente è stato vissuto come uno shock questa notizia. Per cui noi adesso sarà una sfida assolutamente impegnativa, abbiamo già preso contatti con la struttura che li gestisce, con la quale siamo anche fiduciosi di trovare un accordo, perché altrimenti vuol dire un massacro sul nostro territorio. Sì, una via d'uscita, un piano B almeno per fare di necessità virtù, per cercare questo di... Sì, allora però noi intanto la ringraziamo, Lucio Campedelli, sindaco di Arbezzo in provincia di Verona. Ci sono tantissimi ascoltatori, li sentiamo subito dopo la pubblicità. È arrivato un messaggio però, Veronica, questo è straordinario. Riguardo il sindaco di Affile di prima, sì. Mamma Nera è arrivato prima, bello questo nuovo personaggio del sindaco, no? Era il sindaco di Affile veramente, ma cogliamo l'ironia dell'ascoltatore. Piacerà anche al sindaco di Affile l'ironia, sono certa che apprezzerà moltissimo. Ripartiamo dagli ascoltatori, ci chiamano su Affile, c'è un messaggio che dice: buongiorno, io sono uno degli abitanti di Arbezzo, penso che sia una presa in giro. Io lavoro a 40 km da casa per guadagnarmi da vivere. Sarebbe l'ottavo abitante. No, vabbè, magari uno non della frazione, ma dei 700 abitanti. No, è di lì, però lavora. Sì, certo, lavora a 40. Vediamo. Adesso approfondiamo, non ci cogliete mica in castagna. Ma impreparati, studia, che poi domani ci arriva la rettifica sicuro dal comune attiguo. Sicuro. Tra un attimo. I funamboli. Said it's all right. Come with me and find a good fight. Take my coat into sono Funamboli, Marco Taxi da Roma. C'è lo sciopero, a Roma c'è il panico. Ciao Funamboli, Vincenzo dalla Corea, qui l'etere coreano è tutto per voi. Un abbraccio. Siete fantastici, ci volevano di più radio come voi, Radio 24. Io propongo al sindaco di lasciare il nome Graziani, ma di intitolarlo a Ciccio Graziani, campione del mondo 82. Grande Ciccio! Ciccio Graziani ora vi spiegherà tutto chi è Veronica Gentili. Prego Veronica. Ciccio è l'altro appellativo con cui era solito chiamarsi Ivan Graziani. No, grande. Solito tra amici lo chiamavano Ciccio. Ciccio Graziani, lo stop a inseguire, si ingobbisce su se stesso, ma non sai veramente il l'ABC del leopardi, calcio. No, che leopardi, Ciccio. Si ingobbisce Graziani su se stesso? Beh, stupendo, l'azione tipica di Graziani, campione del mondo 1982 in Spagna, insomma... Allora, signori, ci sono tantissime telefonate all'800240024, quindi vi preghiamo di essere sintetici, così c'è spazio a tutti. Scusami, eh? Prima spazio però c'è un messaggio meraviglioso di un Michi, ascoltatore che propone, a questo punto, dopo il sindaco di Affile, visto che un abitante celebre di Scandicci è Pacciani, perché non intitolargli un asilo? Un asilo, fai la brava. No, io ho letto il messaggio. Tra l'altro è arrivato un messaggio da Lionello Mancini, ex vice direttore, qui lo saluto grandemente, ha detto... Abbiamo dimenticato sta domanda, dice, ma se fosse nato un grandissimo comunista della storia, avrebbe il sindaco intitolato un museo a lui, ad Affine? E chi lo sa, manca la risposta. Vabbè, comunque, Vittorio da Parma, buongiorno. Buongiorno a voi, sono qui semplicemente per dare una notizia di servizio, sì, alla signora Gentile. Gentili, che ho visto ieri nelle fotografie. Abbiamo creato il panico. La notizia di servizio è che però una via Stalin credo che ci sia a Reggio Emilia, sì, anche e a Bologna, qui a Parma forse abbiamo una certa via Tito Broz, che se diciamo Tito Broz nessuno sa chi è, ma Tito, se vi dico Tito forse vi viene in mente, certo, qualcosa. Sì. Quindi lei dice, ecco, dovrebbe togliere anche quelle, se tanto no, mi dà tanto. Io dico solo che dico per sì, precisione di notizia. Sì, sì, va bene, ci dice queste. No, sì. Lei su questo ha ragione, Vittorio. Io però dicevo prima una cosa al sindaco, che un conto sono quelle che ci sono già e discutiamo se toglierle. Metterne altre è ancora un'altra cosa. Cioè, come no, se gliela metti... ha capito. Va bene, Vittorio. L'unica cosa sono discussioni intelligenti e costruttive. Però vede, se io andassi in Israele e gli chiedessi di mettere una via a Cosa direbbero? Non lo farebbero. Vittorio, per mettere una via a un certo Tito Broz che infoibava gli italiani solo in quanto italiani, sì, qualcuno può rimanere offeso. Sì, Vittorio, partiamo anche da una questione. Abbiamo chiamato il sindaco, cioè, perché non è che ci siamo inventati il sacrario, il monumento, eccetera. C'è una condanna in primo grado, cioè la notizia è anche quella. È stato condannato lui e due assessori 8 mesi per apologia di fascismo. Quindi la notizia è quella da cui bisogna partire. Poi si discute di tutto, si può anche dire che la sentenza è sbagliata e poi vedremo. Comunque, Si è discusso qui dell'obelisco, monumenti fascisti che si diceva che si volessero buttare giù. Sentiamo Lorenzo che ci chiama da Ostia, un altro dei temi affrontati in questi giorni, sulle prime pagine dei giornali. Lorenzo, eccoci. Buongiorno a voi. Buongiorno. Complimenti come al solito, la trasmissione scontata, ma c'è tutto. Dunque, io sono un vecchissimo abitante di Ostia, in effetti adesso abito a Casal Palocco, ma abito ad Ostia dal 56, quindi ritengo o meno di conoscere il territorio, forse lo conosco un po' meglio dell'ultimo giornalista che è arrivato, forse lo conosco un po' meglio di Ruotolo, eccetera. Noi abbiamo assistito negli ultimi anni, anzi dai tempi di Armellini, dai tempi dell'ottimo sindaco Petere che ci ha scaricato su un territorio già provato da una scarsa viabilità, ci ha scaricato di tutto e di più, di ogni, quindi è nata Piazza Gasparri con tutto il problema di droghe, stupefacenti e quant'altro. Ci hanno affibbiato la nomea degli assassini di Pasolini, ci hanno affibbiato la nomea del fatto di essere una cittadina che ha ospitato di tutto e di più. La città, a prescindere Piazza Gasparri, che come luogo e come territorio di malcostume, malaffare, di concentrazione di... Ma Lorenzo, però ci dica qualcosa sul tema, perché... Ve lo dico subito qualcosa sul tema. No, perché avevo chiesto allora, sintesi. A 400 metri da Piazza Gasparri, quindi gliela dico in 30 secondi, c'è la sede della DIA. E dico, non è possibile che io pagando le tasse, pagandole profumatamente... Cioè, l'investigazione antimafia. Ho capito, non posso parlare. Ecco, un attimo. Sono tutti così. No, spiego qual è il motivo del nostro risentimento. Sì. Gli abitanti di Ostia, di Palocco e Vergene pagano mediamente più tasse della media degli abitanti di Roma. Sarà seccante questa cosa, però è un dato di fatto. Ora, quando noi stiamo sul territorio, ci dobbiamo vedere circolare gli Spada, i Fasciani, i Contrera portati lì. Io mi chiedo, e circolano liberamente, fanno di tutto e di ogni, vorrei sapere dove sono le forze dell'ordine. Sì, lei dice siamo vittime di questa situazione. Lorenzo, però, scusi, perché poi si arrabbiano tutti, ma ho chiesto sintesi, adesso mi incazzo anch'io, ci vogliono 30 secondi di intervenire e se uno dice la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, per spiegarlo agli ascoltatori, me faccia parlare, ma che è? No, poi sembra che uno faccia censura, insomma, è semplicemente una questione di tempi. Comunque, rispetto a questo, volevo ricordare ieri l'intervento di Isabella, che è stato ospite ai nostri microfoni, che ha detto proprio questo: ha detto una cosa molto importante, che si scusava da uomo dello Stato per non essere riusciti, purtroppo, in quell'esperienza di giunta, a fare niente o molto poco, almeno per Ostia, per il fatto che lo Stato non c'è. Rispondeva un po' alla legittima, tra l'altro, a questo rabbia intervento breve e sintetico. Smettila adesso, un pennoncino. L'ascoltatore che dice paghiamo le tasse, c'è la DIA, così ridi e non ti viene il coccolone che ti stava già salendo, c'è la DIA, ci sono gli investigatori, perché non intervengono? Cioè i cittadini di Ostia per bene, che sono come sempre la maggior parte, sono vittime di questa situazione, certamente. C'è Eros da Latina, buongiorno Eros. Buongiorno, ecco. Buongiorno a tutti. Che ci vuole dire? No, volevo semplicemente fare una notazione per quanto riguardava il prete. Dunque, una persona, una ragazza, cresce in famiglia con i suoi genitori, i suoi parenti, eccetera, i quali non si sono accorti che questa si impasticcava. Il prete comunque avrà una sua audience, perché i cattolici in Italia, che veramente si possono dire cattolici e cristiani, sono una sparuta minoranza, non è che siano questa grande quantità del 90%, vista la composizione etnica che c'è. Per quale motivo tutti si devono scagliare contro questo, che poi semplicemente ha detto guarda che se tu te butti dal 20° piano, quando arrivi a terra probabilmente non è che allora, ma avere un po' un po' di pietà cristiana se sei un prete, voglio dire, questo è il minimo. Ma poi non è che se una ragazza è drogata, e quindi mi spiace, ha già dei problemi da affrontare, non è che se va a comprare della droga e quindi viene stuprata. Ma poi che ragionamento è? Anche quando arrivano i messaggi mi dicono, allora signora Veronica, se la metta lei la minigonna vada in stazione in mezzo ai marocchini. Ma io mi domando, ma che risposte sono? Ma perché allora, se vai invece in stazione in mezzo ai milanesi con la minigonna, guarda che... Chiaro, almeno qualche occhiata. Fino a prova contraria non credo che ci sia questa differenza. Detto questo, poi il discorso è che le persone ormai giustificano qualsiasi cosa con la frase te la sei cercata. E torniamo al discorso della reazione. Se uno violenta, se il magrebino violenta la ragazza è perché hai bevuto, sei andata lì di notte, che ti aspettavi? È come il discorso delle molestie alle donne. Beh, dai, tutto sommato te la sei cercata. Ma cosa te la sei cercata? È ovvio che qualsiasi buon padre, qualsiasi buona madre dice stai attenta, dove vai, chi frequenti. Questo è un discorso di prevenzione che si fa a monte. A fatti accaduti, non è che ogni volta si può relativizzare quanto accaduto facendo la somministrazione delle colpe. Comunque ti informo, così, da un sondaggio molto fatto all'impronta, vedendo i messaggi, che la maggior parte sono solidali con quello che ha detto il prete, che peraltro ha chiesto scusa, dicendo anche ieri la Zanzara, dicendo, e poi l'ho vista al TG1, dicendo ho detto una serie di bestialità, mi ha preso la mano, chiedo scusa, ma ovvio, la ragazza mi spiace, è stata violentata. Ma anche tutta la chiesa ha preso le distanze. Monsignor Zuppi a Bologna fa una politica di tutt'altro genere, cercando di lavorare invece sull'accoglienza, sull'integrazione, per cui credo sia rimasto anche lui basito. In ogni caso, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, perché poi adesso sì, non era in onda alle 9:05, ma adesso Leonardo Torna Manera. Torna il sindaco di Affine. No, Leonardo Manera è arrivato tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta i Funamboli. We'll be right back. prima parte il prete aveva ragione, ma poi doveva concludere non che non ho pietà, è esortare a evitare situazioni pericolose. Il prete ha ragione, assolutamente ragione. Se sei una preda devi proteggerti, ma cosa si mettono in quelle condizioni? Le ragazzine? L'altra volta impara. Il prete forse avrà sbagliato, ma sicuramente non ha torto. Io una cosa voglio dire solo alla signora. Io stavo urlando, mi stava per venire. Aspetta, non urlare. Una cosa devo dire, perché adesso stavo discutendo anche con Leonardo. Ciao Leonardo. Ciao, buongiorno. Ciao Leo. Secondo me c'è una questione sul fatto di dire non mettersi nelle situazioni di pericolo. Questo siamo tutti d'accordo. Quello che io ho colto nel messaggio della signora è che c'è in molti quasi che la cattiveria di dire ti sta bene. Sì, cioè, è vero. Ti sta bene che sei stata violentata. Eh no, allora quello non. Uno può dire, cara mia, ti abbraccio, sto con te, hai subito una cosa terribile, certo hai fatto magari una stupidata a metterti in quella situazione, invece c'è, cioè, proprio, vedi, la prossima volta impara, stuprata e impara. Ma non lo so, se proprio dire. Così, tu ci vedi. Beh, questa... L'ha detto così, la prossima volta impara. Una no? Crudeltà, capito? Pensaci, cioè, ragazzi, prima. Ma che modo, ma è? Ma certo di... che uno ci deve pensare prima, peraltro. No, ma ve la ricordate la polemica col senatore D'Anna quando disse appunto che le ragazze sono una preda? Se sei una preda, devi proteggerti. Ma che discorso è? Stiamo qui a fare tutti i discorsi su quelle molestie, il fatto che si va avanti, che forse non c'è più il vetro femminismo, è diventato un'altra cosa, non è più i peli sotto le ascelle. E la risposta è: no, beh, ti devi proteggere perché sei una preda. Lasciando stare il fatto che sei una donna, femminismo eccetera, però la regola dei genitori no, è sempre stata quella. Io mi ricordo che quando ero bambino, io quando mi capitava qualcosa, anche dove io non avevo particolari colpe, ma mi era capitato, dicevano: ecco, hai fatto quella cosa. Ma anche mio padre mi diceva: se esci a mezzanotte papà mi ha rubato l'autoradio. Se stavi a casa a mezzanotte non ti rubavano l'autoradio. Ho capito, ma certo il genitore, ma questo è giusto, questo è il compito del genitore, che sì, cerca di proteggerti perché sa che poi la società funziona in un certo modo e che il mondo purtroppo è anche così. Non, ma mi il fatto piace che la succeda... cattiveria, che quando è successo c'è la cattiveria di dire giusto. Doveva essere stuprata da due, non da uno, perché ha sbagliato. Questa la vedi un po' tu, secondo me sei tu che la vedi un po' così. Cioè. Comunque, no, poi anche sulle vie, volevo dire una cosa: non è che se tu intitoli una via a un personaggio negativo automaticamente è una promozione, perché sono anche vie bruttissime, buie, piene di cacche di cani. Se tu fai via Hitler, che è una via bruttissima, buia, appunto, piena di sporco, poi magari diventa più bella col tempo, cambi nome la via. Certo, ma però poi... abito in via Hitler 28, però pensa a quelli che sono condannati. Con i prezzi delle case che scendono in picchiata, sì, ti compri una casa lì rovinato. Ma io lo farei così, come un ricordo anche degli elementi negativi. Comunque... Caro Leonardo, cari miei, mi tolgo, mentre parli mi tolgo il maglione che fa caldo. Vai a farti i fatti tuoi. Allora, grazie Peter Beschiappè. Un giorno andrò a prendere la metropolitana con le scale mobili, tra le persone che si lamentano perché non sto abbastanza a destra, mentre loro invece sulle scale mobili devono correre, che poi a me tutta sta fretta delle persone di arrivare al lavoro non mi sembra che sia proprio realistica. Ci sono persone che fanno pause caffè lunghissime ma poi corrono sulla metropolitana, sulle scale della metropolitana. Ma entrerò nel vagone affollato come sempre mentre tutti guardano il telefono, però nel vagone ci sarà anche una ragazza carina che non guarda il telefono. Io la guardo e le sorrido. Allora lei abbassa gli occhi e comincia a fissare il telefono. Cerco un suo ultimo sguardo mentre esco dal vagone. Lei, pur di non guardarmi, comincia a fissare anche i telefoni degli altri, mentre gli altri cominciano a fissare me con sguardo inquisitorio, pensando di denunciarmi per molestie. Nel vagone della metropolitana ci saranno anche tra la folla due suonatori slavi che suonano Despacito. Li guardo e intanto, mentre suonano Despacito, io penso di denunciarli per molestie. Poi andrò al bar a prendere un caffè per tirarmi su di morale. In effetti il morale andrà meglio, la gastrite invece peggio. Perché la gastrite è causata da una quantità di cibi: caffè, pomodori, salumi, cioccolata. E se non sono i cibi a causare la gastrite, è lo stress. Quando il medico non sa la causa di una malattia, dice sempre: è lo stress. Il problema è che lo stress viene anche perché non puoi più mangiare caffè, pomodori, salumi e cioccolata. Quindi la gastrite è destinata ad accompagnarci per tutta la vita. Poi camminerò per strada in una delle vie del centro. entrerò in un negozio, uno di quei negozi per giovani, dove c'è sempre la musica a palla e le commesse ti danno sempre del tu, anche se hai 70 anni. Per fare colpo su una commessa comprerò un paio di jeans strappati per sembrare giovane. Andrò a pagare la commessa giovane, mi chiederà se paghi in contanti o con carta di credito, così intanto posso versare la pensione. Tornerò a casa un po' demoralizzato dopo aver fatto il giro in un grande centro commerciale dove ci sono televisioni con lo schermo gigante. Televisione con lo schermo sempre più grande e case sempre più piccole. Non ho mai capito come le due cose si possano conciliare. Io ho fatto una scelta alternativa. Invece di comprare una TV grande, ne ho comprate 6 piccole. Così posso sentire contemporaneamente tutti i telegiornali e sentire in quanti rivoli si è disperso il Partito Democratico. Fino a quando sarà più alto il numero dei rivoli del Partito Democratico che il numero dei votanti. Nel frattempo ci saranno anche state 2 o 3 scissioni da MDP. Sempre meno persone andranno a votare, ma sempre più persone nei centri commerciali, perché il mercato vince su tutto, assorbe tutto. Ci sarà in vendita per i più piccoli anche il pupazzo spada. Il pupazzo che dà le testate all'improvviso, che diventerà un successo commerciale dopo l'eco mediatico. Poi di sera, dopo una cena biologica ed ecosostenibile da bravo cittadino modello, guarderò un po' di TV, forse il Grande Fratello VIP, cercando anch'io di spiare qualcuno delle partecipanti mentre si fa la doccia. A quel punto capirò che è troppo tardi. Andrò a piedi verso l'aeroporto senza prendere la metropolitana e farò il primo biglietto per Paradise Island. Che incubo, soprattutto. Ci mancava, ci mancava. Oggi te la sei chiamata. Me la sono cercata, me la sono cercata. Te la sei cercata, me la Leonardo. Sono cercata. Sentiamo Giuliano da Udine su queste note. Buongiorno Giuliano. Sove. Io aggiungo il mio parere sulla storia del prete, no? Sì. La storia del prete, non vogliamo andare a calcare sul prete, calchiamo sul fatto. Certo che chi l'ha stuprata è la colpa, ma il prete voleva mettere in guardia i giovani, semplicemente, che in un certo modo di vivere si vanno a cercare le rogne. Rogne causate da altri, sì, ma io vado a mettermi nella posizione, sì, di capito? È come dire ai giovani: non andate a 100 all'ora, perché andando, sì, a 100, sì, all'ora vi andate ad ammazzare. Va bene, Giuliano, devo dire che come me e lei la pensano in molti, ma dobbiamo andare al giornale radio. Comunque il tema rimane, se volete chiamarci nella seconda ora. Intanto, se volete il pupazzo spada che dà le testate, chiamateci qui, ve lo mandiamo. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. I Funamboli. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong. Milan, a me mi sono partiti de capoccia per molto meno del rompimento di cazzo del giornalista che ha fatto a quell'altro scemo lì. Ciao. No, per favore, Gentili, per favore, Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni, Graziani. Per favore, Gentili, per favore! Per favore, tra l'altro fanno notare che Ciccio Graziani è di Subiaco, che è a fiano vicino ad Affile, ci dicono. Sì. Per cui ecco, è il cognome tutto di torna. Quelle zone, in effetti. Veronica, dobbiamo fare un'annunciazione. Attenzione. Domenica 19 novembre torniamo con Platone, la caverna dell'informazione, al Teatro Manzoni di Milano alle ore 20:45. È la prima di 5 serate, domenica 19 novembre. Ospite Joelle Dix, e poi tanti comici, band, musica dal vivo. E una volta, una delle prossime volte, verrà anche Veronica Gentili. È incredibile. Pensa quando riuniranno il magico trio su un palcoscenico. Cosa accadrà? È incredibile. Quindi, se l'anno scorso siete venuti e vi è piaciuto, tornate, perché poi ogni volta è diverso. Ci sono ospiti diversi, video diversi e così via. È ancora più bello. Comunque, se volete andare su www.teatromanzoni.it, ci sono ovviamente i biglietti. Domenica 19 novembre, che non è questa domenica, ma quella dopo. Quindi ma voi vi spogliate? Ma perché? No. Perché è bello, come Fulmonti, no? Potremmo farlo, però, sai. Guarda che ci hai dato un'idea. Ho dato un'idea. State per... pure a casa domenica 19 novembre. In quel caso almeno le risate sono assicurate. Eccoli. Però devo... poi ci sarà un punto un giorno Veronica Gentili in una di queste esibizioni. Che potrebbe dare quella è la versione casta. E ci ha dato uno spunto effettivamente che... molto, molto chi di Fulmonti ferisce? Di Fulmonti perisce. C'è Dario da Catania. Buongiorno, Dario. Buongiorno. A scanso di equivoci, desideravo dire una cosa: il signor Spada doveva essere arrestato 15 secondi dopo quello che ha fatto e doveva essere buttata la chiave. Però volevo, il motivo della telefonata, sollecitare una riflessione sul vostro mestiere di giornalisti. Spesso gli intervistatori no, sono petulanti e invasivi. Ha ragione. Un poco di moderazione non guasterebbe. I giovani cronisti sono spesso presi da ansia da prestazione, devono a tutti i costi sollecitare una risposta e quella risposta che loro desiderano. Guarda, io Dario le dico, ha ragione, io sono il primo, non, adesso esuliamo dall'aggressione fisica. Ho sempre criticato questo modo che si è diffuso negli ultimi anni, soprattutto per la TV, ovviamente la TV teca, effettivamente è aggressivo. Aggressivo di io quando ci fu una giornalista di La 7, non ricordo neanche, perché non è colpa sua, è di chi la manda, e Cicchitto, con Cicchitto che disse basta, mi hai rotto le scatole, ma... stavo con Cicchitto, cioè non si può confondere la ricerca della notizia con mi dica perché mi dica. No, Veronica, perché mi dica? Quello che un po' diceva Facci ieri, se non ma sbaglio. Ma certo, ragione. Ci sono delle modalità che possono essere petulanti. Senti. Voi venite. Noi facciamo schifo, ma ci sono voi, tutti con voi venite. No, lei non mi fa, guardi, non mi mette. Questa è la giornalista con sto tono. Voi venite qua a parlarci soltanto di questo, mentre noi dobbiamo parlare di politica. Vabbè, dopodiché, questo poi dopo la questione. Cioè, ha ragione, ma che aggressione è? Si sa che è, cioè, anche un po' un modo, un taglio giornalistico che a volte si utilizza questa cosa per fare il giornalismo un po' d'assalto, d'inchiesta, e che delle volte effettivamente può essere petulante. Io non dico di no, però anche qui la premessa che ha fatto l'ascoltatore è sacrosanta. Giusto, cioè, discutiamo. Poi dopo... discutiamo delle modalità, infatti, giornalistiche, che uno dice beh, a un ma certo del giornalismo punto petulante si ma voi vi ricordate come faceva Enrico Cuccia? Come no, grandissimo Cuccia, la reazione non... è sempre Cuccia docet, cioè bisogna proseguire, certo, fissi ingobbiti senza rispondere mai al giornalista. Certo, Cuccia fece credo 5 minuti con Staffelli, forse no era, ma no, lo faceva sempre quando aveva interviste, Cuccia andava dritto. Oppure per la sua era strada. Il vecchio inviato, pensate vecchio se inviato. Cuccia avesse dato le testate, non avrebbe fatto, perché con la gobba giù ingobbito la testata non viene bene. Cioè, fisicamente diventa un po' complesso, capito? Dai, è il momento del funambolo del giorno. Nome: Alberto. Cognome: Porto. Età: 51 anni. Pilota e ingegnere, ha progettato e costruito l'ultraleggero Ryzen, con il quale ha volato dall'Italia all'Uruguay, segnando il nuovo record mondiale. Signori, qui abbiamo un aviatore. Buongiorno, Porto. Buongiorno a tutti. Amministratore delegato, grazie, della SEA Avio, ma ha costruito questo ultraleggero, come lo dobbiamo definire? Un ultraleggero? Sì, ovviamente, diciamo che io nel 2008 ho cominciato a progettare insieme a Massimiliano, che è il mio socio, questo aeroplano. E piano piano abbiamo fatto della progettazione, la costruzione, poi avviato una ditta per fare poi la produzione. Quindi noi siamo adesso una piccola boutique che produciamo uno degli aeroplani, diciamo una boutique artigianale che produciamo gli aeroplani Ryzen, che non detto solo da noi ma da tutti è, diciamo, il top della categoria, ma c'è un abisso tra questo aeroplano e il resto della concorrenza. Chi sono i vostri clienti? I nostri clienti al momento sono tutti esteri, ok? Noi già abbiamo in portafoglio parecchi ordini, molte più ordini di quelli che noi riusciamo a produrre. Il problema adesso è avviare la produzione, ok? Noi infatti ci stiamo muovendo, abbiamo un accordo con Next Equity Crowdfunding Marche per fare un aumento di capitale per poter accelerare la produzione. Adesso il prodotto è consolidato e il prodotto diciamo, è conosciuto a livello mondiale. Però, okay? Però sì, ma ci racconti di questa trasvolata, cioè perché ha deciso, certo, di fare questa impresa record mondiale? Ma poi quanto è durata? Cioè quanto dura un viaggio così su un ultraleggero? E allora noi abbiamo fatto 42 circa ore di volo per arrivare da Pavullo nel Frignano, che è dove noi abbiamo la sede, sì, costruttiva, ok? Noi stiamo costruendo in Italia, ok? Mm. Mm-hmm. E stiamo potenziando la nostra sede di Pavullo per la produzione fino a Uruguay, che è la base dove il cliente ha l'aeroplano oggi. Tra l'altro, okay? Lei, Porto, come si può capire, insomma, ha un'origine argentina, credo. Sì. Corretto, sì. Quindi quando è arrivato in Uruguay l'ha incorcato di mazzate, perché si sa, Uruguay argentini, sì. No. E torniamo sempre. Tra Uruguay e Argentina c'è molta cordialità, sì, e molta simpatia, no? Invece un pochettino meno con Cile, però è più con i cileni, ma in realtà è stato festeggiato tantissimo perché ha fatto questo record mondiale, ma anche in Brasile, so che a Rio de Janeiro è stato accolto nelle varie tappe. Da tutte le parti, poi è stata bellissima l'esperienza, io non me l'avrei mai immaginato, il fatto dell'accoglienza della gente comune che mi ha scritto, si è congratulato, il calore della gente per me è stato veramente impagabile. Ma lei ha fatto 42 ore di volo, non ha avuto paura? 42 ore di volo su un ultraleggero, insomma, è anche pericoloso. Ma era terrorizzato dagli aerei grandi. Pensa all'ultraleggero, figuriamoci. E poi possono esserci problemi anche di circolazione, 42 ore, magari possibili eventi trombotici. È pericolosissimo. No, ha fatto delle tappe, ovviamente. No, è stato tutto molto, molto facile, diciamo, in un certo senso. Ovviamente moltissima attenzione su certi momenti, però era tutto calcolato bene, quindi io in nessun momento mi sono sentito di rischiare la mia vita. Ma quanto si balla? Cioè, quando si dice si balla in aereo, in un ultraleggero, quanto si balla con un aereo piccolino quando c'è una tempesta? No. Allora, solo un momento ho avuto, diciamo, problemi, diciamo, di meteorologia attraversando una zona di instabilità in mezzo all'equatore, però non è così grave, perché nel mare se vola abbastanza senza turbolenza normalmente. Se ha più turbolenza in terra, no, diciamo, per esempio di Natale a Brasile, ho avuto moltissima più turbolenza che in mare, ok? Quindi chissà come si balla lì. Quindi il segreto, Leonardo, è volare sul mare, di questo hai capito. Il segreto è andare in pullman. Hai risolto il problema. Ma invece i suoi rapporti con l'Italia come nascono? No, io sono italo-argentino, ok? Anche se non lo credete, io sono un immigrato italiano, i miei bisnonni sono andati in Argentina, io sono ritornato e i miei sono di Reggio Emilia, quindi io sono adesso in provincia di Modena, quindi a Pavullo. Praticamente sono ritornato. Certo, origine, come moltissimi, no? Nonni o bisnonni come che sono andati in nonni, bisnonni. Sì, sì. Io ci tengo molto a questo che sto facendo, ci tengo molto a poter costruire una ditta per poter produrre, per poter progredire, cioè noi siamo una ditta sana, che abbiamo fatto piccoli passi senza nessun aiuto di niente, cioè né di banche né di niente, semplicemente. E poi, insomma, costruendo questo che leggo ha una aerodinamica da Formula 1, fibra di carbonio, quindi materiali, insomma, grande ricerca ingegneristica, immagino tecnologica, per fare anche questo record. Anche a voi l'idea è venuta in un garage? No, non so, perché noi siamo amanti delle idee partite dai garage, come Facebook. Ormai no, un po' alla Steve Jobs, questo nuovo filone di persone che hanno sempre le idee nei garage, però per un velivolo forse il garage. No, è così, guarda, io vi potrei dare fotografia di quando nel 2008 abbiamo costruito in garage il primo prototipo. Bello è che sembra che uno scherzo, invece è così, nato dal garage. Ragazzi, se non avete un garage, non avete un futuro. No, ingegnere, la dobbiamo salutare, Alberto Porto, ma grazie. No, vuol darci il sito, c'è un sito della www.seavio www.sea-avio.com. Ah, sea trattino, no? Sea trattino alto avio.com. Sì, okay. Sì, sì. www.sea trattino avio.com. O se no? Comunque basta digitare Sea Risen, no? Sea come il mare, Risen, e se trova in, sì, in dappertutto. Nome, cioè, dell'aereo, cioè Sea Risen. Se trova, se fa un search in un motore di ricerca, si trova. Anche dei motori di ricerca che usa comunque Leonardo Manera, che sono poco consigliabili. No, no, durante le vacanze di Natale Manera accompagna l'ingegnere, sì, sì, sì, fanno un viaggio insieme, un viaggio trasferimento insieme per un ultraleggero. Sì, andrò subito sul così sito turbolenze.com. Ma allora, guarda che se fai un, secondo me se fai un viaggio con lui poi ti passa tutto, la paura. Cara, sono quelle cose no traumatiche, ti butti in acqua e poi a un certo punto nuoti. Come vai, quando i bambini non nuoto, va vai, botte, li butti in acqua e via. E è fatta. Fallo. Lanciati, dai, nella vita. Cosa, Leo, c'è adesso? Traffico. Poi registri tutto e mandami nota. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta i funamboli. Se Leo si spoglia, corro subito a Milano al Teatro Manzoni il 19 novembre. Fammi indovinare, Michele da Firenze. Bravo! Ragazzi, Michele da Firenze. Vi prego, ditemi che Michele viene veramente a vedervi a Platone, documentiamo tutto. Allora, voi non lo sapete, ma io una volta sono veramente rimasto completamente nudo davanti a 500 persone di pubblico. Oh mio Dio. E questa Dio, vuoi farla passare così e andare oltre? Era il 99, registravo Ciro su Italia 1 e c'era uno sketch in cui avevo dei pantaloni col veltro che mi dovevano essere strappati da un'attrice. Solo che questa attrice, invece che strapparmi solo i pantaloni, involontariamente mi ha strappato anche le mutande. Io sono rimasto completamente davanti al pubblico e il regista di allora, sadico, ha mandato più volte l'immagine del mio orgoglio maschile al rallentatore sul maxi schermo. Adesso orgoglio. Ah, ma quindi questo è il segreto del tuo successo, Leonardo? Certo. Tutto è cominciato così. Sì, sì, fino sì, a quel sì, momento eri un ragazzetto in un garage. Allora, sono sicuro che sarà stata un altro tipo e un altro genere di esibizione quella che ha visto protagonista. Questa introduzione me la scrivo e voglio ricordare. Che ha visto protagonista il professor Renato vi giuro non era fatta apposta, è nata così. Il professor Renato Mannheimer che è con noi, buongiorno. Buongiorno. L'autorizzo a riattaccarci in faccia, l'autorizzo. No, sociologo, saggista, esperto di statistica, sondaggista, il professor Mannheimer non ha bisogno di molte presentazioni. Da ieri, attore teatrale. Ebbene sì. No, completamente vestito, tra completamente l'altro. Vestito. Che cosa ha fatto, professore? Prima di dirci come è andata, di cosa si tratta, ce lo spieghi. Beh, si tratta di questo. Per la verità, a me è sempre piaciuto recitare, mi sarebbe sempre piaciuto. E così al Teatro Lizza di Milano hanno avuto l'idea di farmi fare un monologo. E una drammaturga del Teatro Lizza, molto brava, Valeria Cavalli, ha scritto un testo che si chiama appunto Il Sondaggista, molto composito, con anche dei riferimenti a Chekhov, al monologo dei danni del tabacco, e con la regia di Alberto Oliva l'ho fatto, dura un'oretta. E ecco, com'è andata ieri la prima? Ah, pomodori! No! Pomodori! No, ma io voglio sapere. Mi ha sommerso uova, poi quelle che sono quelle che fanno più male. Ma aveva fatto un sondaggio per capire come l'avrebbe presa il pubblico di questa sua andata in scena? No, lo sto facendo adesso e non vi dico i risultati inconfessabili. Ma lei sa che dopo. Dopo ogni replica si cambia sempre un po' lo spettacolo, si può sempre migliorare. Me l'ha detto il regista, anzi mi ha detto: tu la seconda sera sarai più floscio. Come più questa, floscio? La seconda è la un seconda classico, è oggi, che la seconda, è oggi, sì, è che la seconda sia un po' così, un po' a basso profilo, si sa, quindi stasera no, bello sostenuto. No, stasera sarà fantastico, venite anche voi a vedere, vedrete che roba, sarà fantastico. Fantastico, mi sembra giusto. No, dai, però non è vero, i pomodori non ci credo. No, ma poi... No, voglio sapere quanto è stata l'emozione. Ah, Sì, abbastanza, però sa un po', la televisione ti fa fare il callo al pubblico. Comunque, è vero. Sì, ero emozionato, infatti mi sono anche dimenticato qualche stanotte a letto, ho ricordato, cazzo, mi sono dimenticato di dire quella battuta. Ci sono almeno due battute che mi sono dimenticato dall'emozione. Fortuna che non si è accorto nessuno, voi non ditelo a nessuno. No, no, no, non diciamo. Noi non lo diremo poi a nessuno, nella ma seconda ci sarà. Di solito gli spettatori non lo sanno cosa deve dire, se uno se lo dimentica. Però è bello, cioè, dai sondaggi, dai numeri al teatro, che cosa è più difficile, maneggiare i numeri o maneggiare una pièce? Beh, sono cose diverse, solo che mentre nei numeri ho qualche anno di professionalità e quindi lo so fare, nel teatro sono dilettanti alla sbaraglio. E poi avrà dovuto anche imparare a memoria tutto il testo, no? Che per chi non l'ha mai fatto è complicato. E questa è la cosa che io chiedo. Non so come, io lo chiedo sempre a Leonardo Manera e lo chiedo anche a lei adesso, professor Mannheimer. Come si fa a imparare a memoria un testo di un'ora, un'ora e mezza? Cioè, ci saranno delle tecniche, ma ovviamente. Io ripetevo tutto a pezzi, ho studiato tutta l'estate, però devo confessare che, dato che è un'esperienza nuova, io mi sono divertito un sacco a studiarlo. Io immagino un attore professionista, l'ho pensato anch'io, deve essere un inferno studiarti tutte, poi delle volte sono cose noiose. Basta vedere in faccia Manera, insomma, effettivamente. Io invece per imparare vado per strada e ripeto per strada, infatti pensano che io sia matto. No, perché Veronica, tu Veronica fai teatro, ma fai anche cinema, due cose diverse. Il cinema c'è il ciak, ci si ferma. È diverso, il teatro devi andare dritto. Però c'è un ottimo sistema che io suggerisco sempre: ripetersi la parte prima di dormire, perché il cervello memorizza molto di più subito prima di addormentarsi. Molto spesso se ti studi una cosa subito prima, la mattina ma voglio dopo dire, la sai. Ma la parte magari è di un'ora, appunto, come il monologo. Non so è che sembra, è uno di quegli eventi un po', capito, misterici. Ma quando cominci a fare, ce la fai. Sì, è incredibile. Dopo si impara, però c'è voluta applicazione sulla memoria, sì. E poi appunto non ci si ricorda tutto e ci si sbaglia come ieri sera, però hanno applaudito lo stesso. Bene. Ecco, sempre perché non sapevano di questi buchi, l'avessero saputo che c'erano queste dimenticanze, non ci sarebbe stato un battito di mani. No, però ricordiamo le coordinate. Questa sera al Teatro Litta di Milano, a che ora, professor Mannheimer? Alle 21, per chi volesse andare a vedere, insomma, c'è la seconda. Però serata. Ci dica anche un po' di cosa parla questo spettacolo. Posso dire anche che stasera è un po' pieno, c'è anche sabato e domenica pomeriggio. L'abbiamo detto. Ma siamo già una star allora, professor Mannheimer. Facciamo già tutti esauriti. Ieri era tutto esaurito. C'è capito, ma giustamente tutte le persone che ho trovato io e amici miei che ho pagato per venire, naturalmente, ma anche questo non ditelo. Come si fa per riempire i teatri? Giustamente si chiama in maniera pedante tutti quelli che si conoscono 40 volte al giorno. Però professore, giustamente anche Leonardo Manera ci chiedeva, ma il sondaggista, cioè di che cosa parla? Del suo lavoro? No, perché Chekhov non c'entra con i sondaggi. Chekhov c'entra. La storia è che il teatro mi avrebbe proposto, come mi aveva proposto, di fare inizialmente I danni del tabacco di Chekhov. Sì. Questo mi aveva proposto il teatro. Poi io mi sono reso conto che era una cosa troppo importante per uno, appunto, dilettante, lo sbaraglio come me, e siamo deviati su un testo, più sui sondaggi, più sulle cose che so. E nel testo mi prendo in giro perché dico, avrei voluto fare Chekhov, non me l'hanno fatto fare, e eccomi qui con questo parlare sempre di sondaggi. E poi parlo di mia moglie come fa Chekhov, parlo anche di Chekhov, recito anche Chekhov, canto, ballo, faccio perfino un rap. Allora vedi, cos'è che fa perfino? Un rap. Pensi che avevo capito hula hop e sarei corso. Sarei corso. Difficoltà uguale il rap, non sapevo neanche cosa fosse. No, ma dai, il rap, dai. Sì, ho dovuto imparare questi gesti in consulti dei giovani. Io è una figata assoluta. Dovete venire. Vabbè, allora fratello, ci vediamo. Io bro, ci vediamo dopo. Professor Mannheimer, per concludere, e la domanda clou è questa, rientri un po' nel suo ruolo, rientri chi sarà sé, il prossimo presidente del Consiglio? È così, insomma. Questa è difficile. Però ha un vantaggio adesso, ha la licenza artistica, quindi può dire quello che vuole. Questa è difficile. Così, dai, noi così. Poi lo registriamo e ce lo teniamo. Renzi, Minniti, Gentiloni. Ma cos'è? È una formazione dei mondiali. Così ci mettiamo anche Milan Manera Gentili. Gentiloni. Gentiloni, attenzione, la previsione di... Io non so prevedere il futuro, non sono un mago. Ma no, vabbè, però il professor Renato Mannheim dice il prossimo premier sarà Gentiloni. No, aspetta, non ho capito. Ha detto Renzi, Minniti, Gentiloni. No, però poi ha detto Gentiloni. Poi ha detto Gentiloni. Scusi, ma come non è un mago? E allora il sondaggista come fa a fare i sondaggi se non è un mago? No, sì. Il sondaggista non è un mago, no, il sondaggista fotografa, non riesce a prevedere il futuro. Quando vi dicono io so il futuro, non pensavo dicono non c'essero anche i fondi di caffè, no? Sì, lo fanno perché non sono capaci di fare i sondaggi, però son balle quando vi dicono io riesco a prevedere il futuro. Fotografa la situazione attuale malamente, anche una fotografia sfocata. Senta professore, fuori dal teatro si fanno gli exit poll rispetto al suo spettacolo sulla percentuale di gradimento, no? Io ho provato, ieri sera mi sono travestito, mi sono precipitato fuori dal teatro a intervistare gli spettatori, ma nessuno rispondeva. Nessuno. Però ho provato, mi sono messo di sì un cappellone sulla testa, ho pensato cosa pensate dello spettacolo. Tutti... Vi è piaciuto? No, hanno detto che gli è piaciuto, hanno detto che, confesso, a parte gli scherzi, ho avuto applausi al di là di quello che mi aspettavo. E allora, gli è piaciuto. Se volete sentire il flow del rap di Renato Mannheimer, scherzo, no? Il sondaggista al Teatro Litta anche stasera e nei prossimi giorni. La ringraziamo ovviamente, professor Mannheimer. Vabbè, ma bisogna sempre avere 2, 3, 4, 5 vite, 6 vite, anzi, 7 vite. Molto divertente, fa molto vite. Bene. Certo. Chissà sentiamo... chi è stato il talent scout che ha detto facciamo recitare Mannheimer. Sa, dai, andiamo alla borsa, poi ripartiamo dagli ascoltatori. Il defurbizzato. Oh, i defurbizzati stanno cominciando a latitare, non nel senso che scappano. Proprio... Magari è l'Italia che migliora, chi lo sa. Chissà, sì. Forse li stiamo defurbizzando tutti. Allora, mettiamo questa prima ipotesi, poi togliamola e mettiamo le seconde. Ragazzi, non vergognatevi, ne avete sentite di tutti i colori, su! Dai, scriveteci, chiamateci, intanto la borsa. Borse in diretta. Quadro negativo in tutta Europa con Milano che segna un ribasso dello 0,27% sul FTSE MIB, meno 0,3% Parigi, Francoforte meno 0,26% e Londra meno 0,13%, in un mercato che guarda esclusivamente le trimestrali in corso di diffusione. In queste ore infatti proprio su questi argomenti concentrano l'attenzione gli operatori di Piazza Affari, in attesa peraltro oggi di un'asta di bot annuali per 5 miliardi e mezzo di euro. UbiBanca ha chiuso i primi 9 mesi del 2017 con un utile netto migliore delle attese, il titolo è il migliore di Piazza Affari, guadagna quasi 3 punti. Telecom, dopo aver aperto molto male dopo la diffusione dei conti, ha recuperato molto rapidamente, adesso è in rialzo dell'1,7%. Crollo verticale per i titoli Leonardo Finmeccanica, adesso meno 20 punti percentuali, il titolo continua a finire in asta di volatilità con un trimestre che è stato molto difficile, dove in particolar modo ha pesato l'area, la componente elicotteri. In calo questa mattina a Piazza Affari anche Azimut, meno 2, Salvatore Ferragamo meno 1,7, Saipem meno 1,29, l'euro è a 1,1648 sul dollaro. Per ora è tutto con i mercati, ci riaggiorniamo alle 11.30. I funamboli. Milan. A Torino abbiamo Corso Unione Sovietica. Corso Unione Sovietica, ti rendi conto? Più ascolto i messaggi per radio in reazione a quanto è successo in episodi come Ostia, più mi rendo conto che in giro c'è tantissima brutta gente. Io faccio l'autotrasportatore, ma costruisco in garage chitarre acustiche e violini. Avrò un futuro allora, dite? Posso sperare bene? Eccolo! È lui forse, no? No, tu. Potremmo chiamarlo nei lavoratori strani, nei lavori curiosi, questo autotrasportatore. Adesso ci segniamo il numero, caro amico. Costruisce violini, chitarre acustiche. Strumenti musicali in un garage. Nel garage. A proposito di vie. Ho ricevuto un messaggio, scusate, che dice, ma questo garage è sempre lo stesso? Non lo so. A Bologna c'è via Stalingrado, che è una via molto importante di Bologna. Lo dice a me che sono nato e cresciuto a Sesto San Giovanni, conosciuta come l'ex ormai Stalingrado. bello l'Italia. Tra l'altro c'è un messaggio straordinario che ricorda quella volta in cui sei rimasto totalmente nudo, prima ci hai raccontato. C'era. Dice: è da lì che Manera ha iniziato a far ridere la gente. Andrea da Rovigo, cattivo, geniale. Cattivo Andrea, no, geniale, cattivo. Geniale. Allora è il momento di chiamare, ma soprattutto convocare i tanti furbi d'Italia, perché ci siete, io lo so che ci siete, vi state un po' nascondendo, ma dovete scriverci al 349-238-6666 oppure funamboli@radio24.it. Cioè, quella volta che avete fatto una cosa della quale vergognarvi davvero, dai, e che poi, anche se l'avete fatta ieri, potete dire che è successa 20 anni fa, come hanno fatto tutti fino adesso, sì, venite a raccontarci. Noi non abbiamo denunciato nessuno, siamo omertosi, perché in realtà vi defurbizziamo e quindi vi diamo una nuova patente di virginità. Ma soprattutto siamo amorali, noi siamo qui per pulire le vostre coscienze, noi nettiamo coscienze. Siamo i vostri sacerdoti. Una funzione catartica, come abbiamo già detto altre volte. Quasi da prete, ecco, vi diamo poi dei furbizzi, a posto, e via. Don Milan, senza la I. Don Milan, la famosa pedagogia di Don Milan. Esatto, viene tutto da Don Milan. Caro fratello Maurizio, buongiorno fratello Maurizio. Buongiorno fratello Maurizio, come stai? Hai peccato? Benissimo, ho 81 anni, faccio ancora gare di nuoto, quindi va benissimo. E in cosa hai peccato? Sono alla 10ª medaglia d'oro, sono messo fra parentesi. Cosa dei master di nuoto? Ho peccato. No, adesso ci incuriosisce anche questa cosa del nuoto. Adesso ci incuriosisce. Veniamo qui fino alle 8:40 di stasera a raccontarci i suoi successi sportivi. Quello faccio le gare over 80, quando mi butto nell'acqua è medaglia d'oro, perché non c'è nessuno che gareggia over 80. Vabbè, questo certo, sta parecchio. Questo è il sistema efficace. Il fatto è accaduto nel 1958. Va bene, quindi potete fare tutte le denunce che volete, perché non ci dà retta nessuno più. Allora, io ero un giovane di 22 anni con pochi soldi in tasca, perché figlio di madre vedova, quindi andavo avanti, mia povera mamma mi dava 300 lire a settimana. L'abbiamo presa alla larga, la mia povera mamma, che avrà combinato? Allora, io passeggiando per il centro vedo uno splendore di ragazza, americana era, ma bellissima, era circa giugno, sì, quindi con degli abiti estivi quasi trasparenti. Io a me mi si storse gli occhi proprio. Una visione. Mm. E finché come la guardo e lei mi sorride. Allora dico, qui ci siamo. È fatta. Che cominciamo a parlare, anche io, insomma, non la fa tanto lunga. E, parlando, gli offri un caffè, qualche cosa. Lei mi disse che arriva a vedermi, eccetera. E allora io fissai per la sera alle 9. Quindi andai a casa, mi visi tutto per benino, perché era anche belloccio, perché avevo un bel figlio, perché allora. Ancora nuotavo, facevo. E dove siete finiti? Ancora nuotavo, nuoto anche adesso. No, appunto, ma io allora ero secondo, era arrivato secondo al campionato italiano. Ma dove l'ha portata questa signora? Praticamente avevo fissato in piazza Strozzi, dove proprio lì c'era un nightclub. Allora lei diceva, io non ebbi il coraggio di dirgli no, ma così. E entrai anch'io in questo nightclub. Lei si mise a sedere, non aveva borsa, nulla, niente. Aia. Si mise a sedere, grandi sorrisi, ordinò della champagne francese, costoso. Io cominciai a sudare, io dico che qui ora mi mettono in galera. Poi sigarette, poi non so che, insomma ha iniziato a ordinare tutto per una bella serata. Io avevo 300 lire in tasca. E lì ci andavano i grandi signori allora nel 58. E come se ne è uscito? Si poteva solo lavare i piatti? No, che lavare i piatti? Mi alzo un po', scusa, io devo andare al bagno. Sì. Ora per l'appunto il bagno era vicino alla porta. Entrai dentro il bagno, poi uscì all'inglese. Sì. Io credo questa stia ancora ad aspettarmi. Cioè, è scappato. Ma lui si è scappato. È stata una fuga strategica. Io mi sentivo male. Ma l'americana, cioè, splendore! Sì, bellissima! Tutta questa fatica per nulla, oltretutto, perché lasciata la signorina lì, non si è manco battuto un chiodo. C'era un da fare con questa, perché questa era la furbacchiona. Voleva fare proprio spendere soldi. Allora io me ne uscì all'inglese. Però, perché si dice poi all'inglese? Alla portoghese. La fuga all'inglese, andare via senza farsi notare. Ah, la fuga all'inglese. Non me ne sono pentito affatto. Perché però, ha capito che l'avevano incastrato in un gioco. Sì, ma io volevo incastrare io. Poi guardi, in tutta la mia vita sono sempre stato onestissimo, ho sempre pagato le tasse, anche troppe. Ma quella volta lì. Non c'era soluzione, quindi ha fatto bene, altrimenti toccava andare in galera. Lì c'era degli energumeni, degli camerieri, insomma, me la facevano pagare. Avrà pensato, però lei, questi italiani li aiutiamo anche con il piano Marshall, e invece poi ci lasciano. Neanche un po' di champagne. Maurizio ha vinto la nostra patente di defurbizzato, che arriva dal 58, quindi dopo un po' di anni, però direi che questa proprio è dannata come... Mi sono ricordato adesso, sentendo il signore di Firenze, che anch'io ho conosciuto a Firenze anni fa una ragazza per strada. E le avevo dato appuntamento al bar De Anna di Firenze, che è un bar che c'è proprio dietro la stazione di Firenze. Non si è presentata. Forse, visto come è andata il signore, meglio no, così. Tra l'altro, è importante. Ieri abbiamo parlato a lungo delle foto di Veronica Gentili, ma ci chiedono un'informazione di servizio fondamentale. Esiste un video su YouTube della tua esibizione a Ciro in cui sei finito? Non credo. Bisognerebbe chiedere a Luca e Paolo se l'hanno conservato, perché lo fecero rivedere più volte nel corso di quella triste serata. Ma fu fatto rivedere, immagino, non in TV. No, fu fatto vedere poi anche alla festa di fine produzione del programma, mandato a pieno schermo. Sì, però a porte chiuse. A porte chiuse. Certo. Sì, non è pubblico. Comunque dai, il traffico e poi ritorniamo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta i funamboli. Ciao funamboli, sono Massimo. Ci vorrebbe non 2 ore di trasmissione con voi, ma 4. Siete grandiosi, assolutamente grandiosi. Senti qua che rock duro, eh? Allora, Leonardo, è il non momento. Non sembra, ma Alessandro Milan qui è un rocker nell'anima, un rocker dentro, cara Veronica. Lo vedo da come batte la testolina, come muove il collo. Quello è il torcicollo che da un paio di giorni. Come rock duro. Presidente De Luca. Dovremmo tornare. Non c'è un po' duro di mancanza, non ti manca? Ma tantissimo. Andremo avanti. Però è il momento, come ogni venerdì, di fare un riassunto momento delle notizie. Di servizio pubblico per riassumere le notizie con tutte le news minuto per minuto. Il voto a Ostia, Cateno De Luca eletto nelle file dell'UDC, arrestato per evasione fiscale, unioni civili come il matrimonio, grave aggressione contro una troupe televisiva Ostia, indaga l'antimafia, succede a Ostia, l'aggressione a un inviato della RAI, Roberto Spada reagisce con una testata e poi segue cronista e operatore, Casa Pound prende le distanze da Spada e dice invece della testata dovevo usare solo il manganello, atteso referto medico, fine della tregua criminale, commenta commissario prefettizio di Ostia, messaggio alla politica, preoccupante come la forte tensione, nuova assemblea regionale siciliana, conta già il primo arrestato, è il record di Cateno De Luca, secondo inquirenti promotore associazione delinquere finalizzata all'evasione fiscale, Cateno agli arresti domiciliari, rilancia con un video postato sul suo profilo Facebook, Cateno De Luca entra nella lista degli impresentabili, se non altro per il nome, Cateno, a attacca il Movimento 5 Stelle, critico MDP, gli impresentabili sono un problema sostanziale, Forza Italia, garantita, Salvini se la prende con le liste non pulite, e adesso lo scopri Salvini, figlio mio, torna a riunirsi il tavolo sulle pensioni, qui sulle pensioni si continuano a fare tavoli, tavoli, tavoli, intanto cresce il PIL legato alla produzione di tavoli, va cambiata in corsa legge che innalza l'età pensionabile a 67 anni, intanto cresce il PIL, ma non raggiunti ancora i livelli della pre-crisi, sti livelli pre-crisi non li raggiungeremo mai, anche perché non ci ricordiamo più come era una volta, risveglio di domanda interna, consumo, investimenti, cambio di rotta dell'occupazione, la rotta è cambiata, solo che adesso non si capisce più dove si va, al via il tavolo tra regioni e governo sul tema delle autonomie regionali, Zaia, Zaia, Zaia, galoppa solo sulla fascia e non si presenta al tavolo, cresce ancora il PIL di produttori di tavolo, estero, Catalogna in sciopero, unioni civili, come matrimoni, nuovi contratti per gli statali potranno assentarsi dal lavoro, in effetti ce ne eravamo già accorti, il fine è quello di assicurare l'effettiva tutela dei diritti, approvata, legge di riordino al settore spettacolo, le nuove norme prevedono anche superamento degli animali nei circhi, intanto nazionale italiana di calcio, vola, in Svezia, Ventura, si affida ai veterani, critico, MDP, stasera vediamo come va e siccome non si può dire Forza Italia, diciamo solo Forza Azzurri, ole, ole, ole, critico, MDP! va bene, MDP, tra l'altro avete visto questa cosa che hanno dato a, no, questa è la sinistra, chi è che ha dato la sinistra a Oliviero Toscani la sì, che vuole, l'incarico che vuole. Di fare il, no no, beh, forse il MDP manifesto. Proprio, no? Sì sì, MDP, MDP. Infatti hanno il fatto... problema è che lui è... hanno dato a Oliviero Toscani il compito di fare il nuovo logo e lui ha fatto il sì. logo Max. Perché quindi, dire andate al massimo, ma Max è D'Alema. E si è creato questo D'Alema. Misunderstanding che infatti D'Alema stesso si è un po' schermito dicendo ma no dai cosa dite, e lui ha detto ma come D'Alema, ma che c'entra, ma che sono queste cose, lasciamo Max, così Max e vado allora, al massimo. C'è Giada da Roma, Giada, buongiorno. Che bel Giada. Nome Giada, eccoci. Buongiorno, io chiamo per intervenire su quello che ha detto il prete su Facebook. Sì. E scremando allora il linguaggio estremo, aggressivo, eccetera, è chiaramente scioccante da parte di un prete, però trovo che quello che lui va a dire ci sta, nel senso che questi ragazzi, specialmente giovanissimi, con i social e con tutto quello che gli è permesso tramite internet, credono di sapere tutto e pensano di potersi permettere di vivere in qualsiasi maniera, per cui con questi comportamenti, bevendo, usando droghe, eccetera, si vanno a cacciare in situazioni veramente rischiose, per cui è una fortuna che questa ragazza non ha avuto un'esperienza ancora peggiore a 14 anni. Ma sembra che non gli venga detto abbastanza dai mezzi di comunicazione o da chiunque, perché gli sembra che possano fare qualsiasi cosa. Per cui mi sembra giusto quello che ha detto il prete. Se giusto, uno va... Vabbè. Si ubriaca, esce con e passa tutta la notte fuori a 14 anni con degli extracomunitari. Ma che cosa rischia, può aspettare? Rischia. Va bene, Giada, la pensa come molti che sono intervenuti. Sì, molti. Io invece mi chiedevo, ma non diventa anche invece un po' un modo di fare politica invece che di fare religione, no? È un po' un modo di arringare le folle anche questo, cercando sempre l'applauso e il consenso sulle cose che si sa che vanno per la maggiore. Chi lo sa, ci lasciamo con questa domanda, cari funamboli, ci ritroviamo lunedì alle 9. Come mi sono divertito. Che spettacolo!